Sì, in questa prima parte della serata appunto sarà possibile vedere storie di resistenza, perché diciamo che nel mio lavoro, io vivo in Perù, e nel mio lavoro cerco di evidenziare le politiche neoliberali e il neocolonialismo fatto da imprese straniere sui territori dell'America Latina, e quindi abbiamo utilizzato come esempio in Perù per poi andare in Ecuador e in Bolivia e far vedere i vari tipi di estrazionismo che c'è nei paesi. La serata poi si concluderà invece parlando di Ecuador, il titolo appunto della serata è Ecuador forte come il caffè. Qua invece cosa porterai, Alessandro? Sì, in questa fase della serata appunto porterò delle fotografie fatte in Ecuador con Cospe, dove appunto parliamo della storia di Doña Julia. Doña Julia è una donna appunto che ha deciso di non cedere alla massificazione all'olio di palma, ma sta cercando di combattere appunto, come dicevo prima, come nelle miniere. Anche la storia di Doña Julia è una storia di resistenza, perché lei decide di investire nel caffè, nel cacao, e quindi di non cedere alle multinazionali dell'olio di palma. E tra l'altro è una storia molto interessante, perché lei ha fondato anche un'associazione di donne che riescono non solo a vendere il cacao, ma se no a tostarlo e a creare anche proprio una cioccolata, a creare anche il caffè, quindi diciamo anche una storia diciamo di imprenditoria. Ecco, quindi Alessandro, se possiamo dire insomma qual è lo scopo delle tue fotografie e questo che ci stai raccontando adesso? Sì, assolutamente, come con il lavoro fatto appunto con WeWorld nei tre paesi e con Coste in Ecuador, l'obiettivo principale è la resistenza che c'è nelle popolazioni indigene contro alle politiche neoliberali adottate da molti paesi sudamericani dal dopoguerra ad oggi, e come diciamo c'è questa lotta contro il neocolonialismo, che io appunto considero neo perché non più fatto dagli stati, dai governi, ma se non dalle imprese, quindi da questa forza al capitalismo frenetico, e quindi far vedere quali sono gli sforzi quotidiani delle popolazioni indigene in Sud America. Diciamo, nelle tue foto sarà visibile anche come dire, le conseguenze anche geografiche, o comunque che riguardano insomma l'ambiente di questi luoghi, ecco. Certo, l'ambiente appunto è fondamentale, perché appunto sia nel caso come nell'olio di palma e nel caso per Coste, sia nel caso delle estrazioni minerarie con WeWorld, è sempre l'ambiente, è sempre diciamo lo straniero che arriva in un territorio, prende quello che il territorio ha da offrire, molto spesso è l'ambiente, e quindi appunto per interesse economico, per interessi economici, diciamo lascia veramente poco, sia in termini economici alle popolazioni che lo abitano, e sia in termini di quello che appunto lascia. Per esempio nel mio lavoro con Costo ho visto distese di alberi di palma da olio morti, abbandonati là, oppure nel lavoro appunto delle miniere ho visto fiumi secchi, senza acqua, perché appunto le imprese minerarie avevano preso l'acqua per poter fare andare avanti la miniera, quindi c'è proprio una sorta diciamo di prendo tutto io da parte delle multinazionali. Ovviamente questo è fatto con l'appoggio dei governi di questi paesi, che molto spesso diciamo questi paesi sono centralisti, e quindi gli interessa molto di più il discorso di quello che succede nelle capitali e molto meno quello che succede nelle zone rurali e nelle zone indigene. Bene, Alessandro, io ti ringrazio per averci raccontato qualcosa di più sulle tue fotografie. Ricordo che appunto sarai qui a Bologna venerdì 6 all'interno del Terra di Tutti Film Festival, quindi noi ti aspettiamo. Grazie mille, grazie a voi.